get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Buonasera a tutte e benvenute alla 204esima trasmissione di Una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione a cura del coordinamento lesbiche romane nell'ambito del martedì femminista e lesbico autogestito, che è in onda, come sapete, da 204 settimane praticamente. da molto di più tutti i martedì su Radio Onda Rossa dalle 17 in poi, e noi siamo dalle 21 alle 22. Potete ascoltarci sugli 87.900 MHz Radio Onda Rossa, oppure potete collegarvi sul nostro sito internet, che ve lo ridico, che è www.clrbp.it. cliccate sulla radio, cliccate sull'icona in diretta e sarete meravigliosamente collegate con noi. Oggi siamo io, come al solito, e Rosina, Buonasera. Ma c'è una grande tutte. Sorpresa oggi abbiamo un ospite, abbiamo graditissima, un ospite, esatto, due, perché ce n'è una, però una silente, l'altra anonima. Invece parlerà ed è Monica, una delle donne, delle persone che fanno parte, sì, è tangibile, del, vero, del, è una donna del gruppo Facciamo Breccia, esatto. E noi infatti oggi parleremo di due cose importanti, no? Di due argomenti importanti. Uno è parleremo del convegno sulla famiglia, no? Della contromanifestazione, norma e normale, organizzata appunto da Facciamo Breccia, che si è tenuta lo scorso weekend, venerdì e sabato scorsi. E l'altra cosa di cui parleremo invece è il prossimo Pride nazionale, che si svolgerà a Roma il 16 di giugno, sabato, al quale possiamo già dirlo, facciamo questa anticipazione. Solo alla fine della puntata saprete se le separatiste di Roma. aderiranno o meno. Se volete dire la vostra su questi due argomenti, potete o telefonarci in diretta allo 06 49 17 50 e parlare con me, Rosina, o forse è meglio con Monica, oppure potete mandarci un sms al nostro cellulare, che è il 338 41 46 682. Io direi che insomma, sì, direi, insomma, Monica l'abbiamo introdotta, sì. Noi ci siamo introdotte già da un pezzo, ecco, per cui possiamo mandare magari subito un pezzo musicale, così loro si rilassano tranquille, sì. Tranquille, dopodiché parleremo con Monica, che ci racconterà come sono andate le cose. Vista l'acqua che c'è stata sti giorni, ho pensato all'acqua di marzo. Ma bello, ci piace, ma è il collegamento, l'ho capito, sei brava. Sozinho, é caco de vidro, é vida e o sol, é noite e a morte, é laço e anzol, pelo bar do campo, é nó da madeira, cainga, caindeia, é tinta pireira, é madeira de vento, tondo da ribanceira, é mistério profundo, é querer, eu não quero, é vento ventando, é fim da ladeira, é viga e o vão, festa da cominheira, é chuva chovendo, a conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a marcha estradeira, passarinho na mão, pedra da tiradeira, é uma ave no céu, é uma ave no chão, é regato, é uma fonte, é pedaço de pão, é o fundo do poço e o fim do caminho, no rosto desgosto e pouco sozinho, é uma estrepa, é prego, é uma conta, é conto, é pingo pingando, é uma ponta, é ponto, é peixe, um gesto, é prata brilhando, é luz da manhã, e o tijolo chegando, é leia, é dia, é fim da picada, é garapa de cana, e o estilhaço na estrada, é projeto da casa, o copo na cama, é carengue sata, é lama, é passo, é uma ponte, é sapo, é uma rá, é resto de mato, na luz da manhã. Sal as águas de março, fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Pom, pom. É José, é um espinho na mão, é um corte no pé. Per parlare appunto della contromanifestazione organizzata da Facciamo Breccia a Firenze, appunto la contromanifestazione per diciamo protestare per la conferenza nazionale della famiglia organizzata dal governo. Abbiamo sentito dalla sua viva voce, mentre invece la mia viva voce vi leggerà il documento, il comunicato di Facciamo Breccia su norme normali, così avrete un'idea più o meno di quale fossero le istanze per questa iniziativa. Allora, ogni giorno la Chiesa Cattolica attacca l'autodeterminazione di tutte e di tutti, mentre la politica istituzionale, culturalmente subalterna, traduce le pressioni vaticane in iniziativa politica. Mentre l'ingerenza della Chiesa Cattolica diviene sempre più aggressiva nel tentativo di limitare le iniziative legislative volte a riconoscere l'autodeterminazione dei corpi e degli stili di vita, aborto, diritti riproduttivi, unioni affettive e sessuali, testamento biologico, la ministra Rosi Bindi organizza la prima conferenza nazionale sulla famiglia, che appunto si è tenuta a Firenze dal 24 al 26 maggio, che segnerà la linea delle politiche governative su famiglia e Stato sociale. Secondo le parole della ministra Bindi, la conferenza si occuperà esclusivamente delle famiglie semplici, delle famiglie normali, per renderle, secondo il diktat vaticano, l'unico soggetto di un nuovo modello di welfare che vuole riportare all'interno della famiglia tutto il lavoro di cura, quindi affidarlo alle donne. La famiglia diviene così l'unico soggetto delle politiche sociali, le donne perdono la propria autodeterminazione, chiunque scelga una vita altra dal modello dominante viene del tutto esclusa o escluso. Individuiamo quindi in questo progetto la congiunzione fra l'ondata di politiche confessionali e fondamentaliste a cui assistiamo nel nostro paese e le politiche neoliberiste a cui la Chiesa Cattolica fornisce l'apparato ideologico con la retorica della famiglia naturale per consentire l'abbattimento dello Stato sociale. Inoltre, la Conferenza Nazionale sulla Famiglia non ha obiettivi limitati all'Italia, ma vuole condizionare le politiche europee dando vita ad un'alleanza per la famiglia sulla scia dell'appello lanciato dalla attuale presidenza tedesca dell'Unione Europea, tanto che l'ospite d'onore a Firenze sarà la ministra tedesca per la famiglia Ursula von der Leyen, la quale, posso aggiungere, è madre di ben 7 figli, che insomma fa la sua figura. Gli obiettivi reali di questa iniziativa, prosegue il documento, sono già chiari nella presentazione della conferenza, che intende indicare gli interventi relativi all'attuazione dei diritti della famiglia e concorrere alla costruzione di un modello di welfare più europeo e più moderno. Questa frase, infatti, già contiene i due elementi principali che l'iniziativa intende congiungere. I diritti della famiglia, sulla base dell'articolo 29 della Costituzione italiana, si rappresenta una famiglia titolare di diritti che troppo spesso si sovrappongono ai diritti individuali. La famiglia così diviene non più libera scelta, ma modello dominante imposto, sulla cui ortodossia è rivendicato in Italia il controllo da parte della Chiesa Cattolica. Il secondo punto, il modello di welfare più europeo. Il progressivo abbattimento dello Stato sociale, cioè dello stesso welfare, che dovrebbe essere sostituito dalla famiglia con le proprie risorse interne, leggi le donne. Dunque, quindi, per rivendicare sia l'urgenza di scelte laiche che di politiche sociali rivolte alle cittadine e ai cittadini, indipendentemente dall'ortodossia delle loro scelte, Facciamo Breccia ha invitato ad aderire e a partecipare a questa mobilitazione che appunto vuole porre al centro del dibattito l'autodeterminazione di tutte e di tutti, la necessità di politiche sociali non legate ad una lettura ideologica e integralista, la richiesta di cancellazione di leggi confessionali a livello nazionale, in particolare la legge 40, e locale, la criminalizzazione della interruzione volontaria di gravidanza portata avanti dalla Regione Lombardia attraverso la legge sulla obbligatorietà del seppellimento del feto, ma anche europeo, principalmente in Polonia, dove stanno per essere varate delle leggi fortemente discriminatorie verso le donne, le lesbiche, i gay e i trans. Quindi, il 25 e il 26 di maggio a Firenze, Monica, che cosa è successo? Raccontaci un po'. Allora, il 24, il 25 e il 26. Il 24, speravo di averla accorciata. Dunque sì, innanzitutto volevo raccontare quella che è stata una frase che ha pronunciato Bagnasco appena è diventato presidente della CEI, in una delle sue prime dichiarazioni. Una società che codifica l'assoluta libertà di ciascuno su se stesso, ad esempio con l'autodeterminazione senza alcun limite rispetto alla morte, si pone sulla via dell'implosione. L'assoluta libertà, sciolta da ogni vincolo, è la premessa per qualsiasi forma di violenza, sopraffazione e conflitto. A partire da qui, penso, si può insomma andare a vedere quanto sono, a riconfermare quanto sono lontane le posizioni appunto di questa gerarchia rispetto a quelle della società, e tanto più di una società che si interessa, diciamo, al proprio benessere e al benessere collettivo. Quello che è successo a Firenze appunto è stato un programma di mobilitazioni che è stato preparato con mesi di riunioni a livello cittadino, a cui ha partecipato una gran fetta della sinistra, sia movimentista che più istituzionale. E alla fine quello che è stato organizzato sono stati appunto 3 giorni di mobilitazione che si sono aperti il 24, quindi il primo giorno della conferenza, con innanzitutto una visibilità di piazza fatta, diciamo, in maniera estemporanea, con persone che arrivavano con le bandiere, poi scomparivano con striscioni rosa e cose così, in una maniera un po' fuori controllo, e che insomma è stata giusto così per dire ci siamo, E la, stato sera un casino. La sera poi è stato organizzato il bindi aperitivo per bindare insieme alla insieme insomma in una casa del popolo fiorentina, in cui si sono raccolti tutti quelli che erano, diciamo, già arrivati a Firenze o che avevano lavorato di Firenze, che avevano lavorato sulla mobilitazione. A partire poi dal fatto che con Facciamo Breccia cerchiamo sempre di costruire quella cassetta degli attrezzi che ci serve per andare anche a cercare di capire come declinare la laicità o come declinare la nostra autodeterminazione in relazione alla laicità, e convinti che, insomma, nonostante una riflessione su questi temi ci sia comunque bisogno sempre di approfondire. Il secondo giorno, il 25, è stato organizzato una giornata seminariale che appunto il pomeriggio, poi c'era una cena, poi il dopo cena in cui si riprendeva il seminario, che ha avuto come titolo L'uso della famiglia ai tempi del neoliberismo. E, fondamentalmente questa giornata seminariale è voluto essere proprio il momento in cui si andava a cercare di fare una proposta alternativa, perlomeno dal punto di vista della riflessione. Ovviamente non è che ci si possa confrontare a milioni di euro spesi per organizzare una roba dove si dichiara ci sono 2000 ospiti, però non era certo quello l'obiettivo, ma l'obiettivo era dirci e spiegarci che cosa stavamo facendo. La giornata si è suddivisa in due parti fondamentali. Una prima parte è stata dedicata alla riflessione su cos'è, sul concetto di naturale, su come il concetto di naturale viene declinato dal punto di vista politico, su come il concetto di naturale viene declinato dalla Chiesa e come la Chiesa lo usa per fare da schermo all'autodeterminazione, alle libertà individuali e così via. E anche dal punto di vista giuridico. Quindi gli invitati erano, insomma, a partire da Ornella De Zordo, che fa parte del Consiglio Comunale di Firenze, professori universitari, Gianni Baldini, Lidia Menapace, senatrice della Repubblica, eccetera. E Nicoletta Podimani, Facciamo Breccia. E Carlo Power Modesti, che è di Roma e parla spesso in questa radio, quindi magari gli ascoltatori se lo ricordano. La seconda parte della giornata è il dopo cena, era su un argomento ancora più leggero, cioè leggerissimo, sì, cioè il welfare, come la famiglia serve, appunto, viene utilizzata come ammortizzatore sociale, ma è anche un pochino di più, forse, cioè nel senso questa conferenza, la conferenza organizzata dalla Bindi, era una conferenza che doveva servire come programmazione del governo e anche come diciamo divulgazione di quello che era il programma del governo, che è il programma del governo a tutti a una serie di quadri intermedi che lo ricordiamo hanno partecipato, anche se erano di quei partiti che avevano detto che non avrebbero partecipato, insomma, perché sì, i quadri alti non hanno partecipato, però le parti intermedie erano quelli che, degli enti locali eccetera, erano praticamente quasi costretti a partecipare o comunque forzati, e quindi la parte riguardante il welfare doveva cercare di andare a estrapolare qual è l'uso che questo governo vuole fare della famiglia per distruggere quello stato sociale che in Italia già c'è, quindi è ben diverso da per esempio la situazione che ne so, paesi come l'America Latina in cui lo stato sociale non c'è mai stato e la famiglia è naturale, è ovviamente immediatamente quello, cioè qui c'è anche da riproporre, cioè c'è da riportare le donne in casa che non ci sono mica più, o perlomeno non così tanto. Cercano di uscire, ma cercano ovviamente di riportarle dentro. E questo è comunque uno stato di cose che ormai va avanti già da parecchio tempo, insomma. E quindi e succede non soltanto qui, succede anche negli Stati Uniti, senza arrivare in America Latina, succede da molto, ovviamente. E, sì, e quindi fondamentalmente siamo andati a cercare di proprio destrutturare quello che era il convegno stesso, per esempio il fatto che all'interno della conferenza c'era una parte che riguardava il controllo, cioè il controllo delle nascite inteso come politica proprio eugenetica, nel senso che in una delle sezioni, era divisa per sezioni questa conferenza, veniva spiegato come gli italiani hanno un forte calo delle nascite. Ora questo non è vero, gli italiani bianchi ariani hanno un forte calo delle nascite, ma in Italia da poco tempo si assiste a un aumento delle nascite, ovviamente per via dell'immigrazione. Certo. Questo ovviamente non era nemmeno scritto, quindi era proprio una menzogna, bisogna ricordarci che l'ultima volta in cui un governo si è dato, diciamo, un compito di questo genere era un periodo alquanto buio che preferiremmo non dover nemmeno ricordare. E quindi insomma abbiamo appunto sviscerato questo, poi il fatto che per esempio all'interno della conferenza c'era il movimento della lotta per la vita che distribuiva una loro proposta di legge che avevano già fatto, se non mi sbaglio, un paio d'anni fa, e che appunto una proposta di legge che serve a rendere più difficile l'applicazione della legge sull'aborto, rendendo più difficile tutta una serie di passaggi per arrivare all'aborto. Faccio degli esempi, tipo che il medico curante ti deve mandare una lettera a casa in cui ti invita a non abortire e ti deve rispondere di no, cose del genere, insomma delle cose un po' deliranti come fanno sempre quelle del Movimento per la Vita, però loro erano dentro Casini dentro e fuori infatti Carlo Casini fuori, ovviamente Pier Ferdi non so, forse era da un'altra parte, non so, non c'era a Firenze, no, non so, sarà stato con una delle due mogli sì, proprio una delle due famiglie naturali, naturalissime. E detto questo, poi vabbè, a tarda sera il 25 c'era anche una festa organizzata dagli studenti di sinistra presso la facoltà di Agraria, e poi il giorno dopo appunto la manifestazione stanziale in piazza Adua, cioè proprio di fronte all'entrata delle iscrizioni della conferenza, e questa manifestazione devo dire è stata meravigliosa. Io sarà che quanta gente c'era secondo te? Ma il numero vero e reale senza aumentare propriamente erano 500 persone, che è una bella cifra. Che è una bella cifra per un sit-in. Una signora cifra per un sit-in. E poi la cifra, diciamo, tra virgolette, di questa manifestazione è che c'è stata una presenza non soltanto di insomma di voi di Facciamo Breccia, che eravate lì con uno scopo ben preciso, ma si sono uniti anche altre organizzazioni, sono arrivati i migranti. Chi è arrivato? Abbiamo visto, era una manifestazione molto colorata, c'erano un sacco di bambini perché non c'erano i preti, lo dico qui, potete pure arrestarmi e raccontaci un po'. Sì, allora innanzitutto appunto Facciamo Breccia Fiorentina si era sviluppata, diciamo, durante tutto questo percorso che appunto era durato alcuni mesi, e quindi già di per sé comprendeva tutto il movimento femminista fiorentino, il movimento gay, gay, lesbiche, trans, e tutta una serie di collettivi, di giovani, di meno giovani, pezzi di partito, eccetera. E quelli sono quelli che hanno dato vita alla manifestazione, alla quale si sono poi aggiunti durante la mattinata tutta una serie di altri settori sociali, proprio a dimostrazione del fatto che l'abbattimento dello Stato sociale è un problema sentito. Innanzitutto è convogliata all'interno della piazza una manifestazione che c'era, organizzata dai migranti e dal coordinamento Lotta per la Casa. E quindi già lì la manifestazione è diventata coloratissima e piena di bambini, divertentissima. E poi sono anche convogliati i partecipanti a un'altra manifestazione, che era una manifestazione per la difesa della scuola pubblica. Quindi tutti i temi collegati fra loro. Tutti i temi collegati fra loro, e a cui l'attacco all'autodeterminazione è proprio utilizzato per distruggere quelli che sono i nostri diritti. Colpisce. La manifestazione appunto ha dato spazio e voce a tutte queste diverse realtà, quindi appunto si vedeva appunto i bambini giocare con le bandiere novatte, con i cappelli da papa con scrittazione gay e lesbica, si vedeva parlare la comunità senegalese, poi il sindacato per la scuola, poi il trans, cioè, tutta la famosa società civile che in alcuni casi c'è. Appunto Rosy Bindi si è affacciata e aveva fatto entrare. E è venuta a ballare, sì. Ma basta queste cose, che palle. No, non siete riusciti a sfondare, qualcuno ha sfondato tra virgolette, sappiamo che qualcuno è entrato ma è stato, sembra, buttato fuori. Non eravate proprio voi, era credo la Parrillo e l'altro Zan. Il consigliere comunale. Che cosa è successo quando loro sono entrati? Avete avuto... Dopo che loro sono riusciti due nanosecondi, ma cosa lampo proprio, esatto. E appunto gli abbiamo anche a loro ovviamente dato la parola, e verso la fine della manifestazione a quel punto, e appunto hanno raccontato di come appunto si sono fatti vedere imbavagliati e sono stati prontamente espulsi dalla sala senza colpo ferire oppure con colpo ferire, come ad esempio è successo a Mosca, dove qualcuno è stato bastonato. Allora siamo ancora abbastanza democratici, sì. In questo paese. No, quelli che sono state ovviamente tutte le pratiche che si sono tenute in piazza erano pratiche totalmente dissacratorie e colorate. Uno è stato quello di, appunto, avevamo portato diverse centinaia di metri di uno straccione rosa, che siccome è stata lanciata questa campagna dei straccetti per la laicità, che sono questi straccetti rosa, che è una campagna proprio partita da Firenze, poi insomma Firenze è una città che non è proprio la media delle città nazionali per quanto riguarda la quantità di gente di sinistra e laica, e quindi insomma a Firenze tutti hanno questo straccetto attaccato alla borsa, eccetera. E noi avevamo organizzato appunto questo straccione con il quale abbiamo ballato e riempito la piazza di rosa, e se qualcuno è curioso anche di vedere quello che siamo riusciti a fare sito. Su www.facciamobreccia.org, proprio il sito si apre con le foto, che sono veramente divertentissime. Un'altra iniziativa che abbiamo fatto, che non è stata magari totalmente percepita nella maniera giusta dalla stampa, è stata quella di organizzare un matrimonio collettivo, cioè a un certo punto ognuno di noi si poteva sposare con chi voleva, quanti voleva, per qualunque ragione voleva, e il matrimonio era finalizzato a essere dichiarati quello che Cappero ci pareva. E io mi sono sposata con una coppia di anziani, un lui e un lei e un ragazzo. Viva l'etaismo, si è basso l'etaismo in questo caso. Però ovviamente quello sulla stampa è uscito, i gay hanno fatto la manifestazione, si sono voluti sposare perché loro si vogliono sposare, sì, vabbè, però del resto la stampa un po' di limiti ce l'ha, ecco. Sì, parecchi limiti. Ce l'eravamo già accorti prima. Comunque, boh, che dire, fondamentalmente è stata una cosa divertentissima, è stata una cosa che ci ha arricchito tantissimo, e poi mi sembra, insomma, nel senso, uno dei gruppi che in America Latina si è spesso di più anche finanziato dai poteri forti per mantenere le dittature si chiamava Dio, Patria e Famiglia. Mi sembra che questo Family Day del governo abbia assunto tantissimo questo tema, tanto da riuscire a portare appunto in piazza soggettività così diverse. Eccoci. Bene. Qua. Sì. Dunque, Annalisa, volevi dire qualcosa? No, ti ho visto, visto sollevarti. No, apposta. Non volevi dire nulla. No. Dunque, Monica, il tempo è tiranno, come sempre, in queste occasioni, e ci hai dato più o meno, insomma, una idea di quello che è successo. Ci è dispiaciuto molto non poter essere presenti, però eravamo presenti in spirito, mo ci vuole, perché quanto qui ormai di questo si parla. Quali sono le vostre prossime... Sì. Eppure il sito, dobbiamo dire. L'ha già detto, dove... Guerilla, ah, non l'hai sentito. Segui. È stato sì. Voi state facendo questo lavoro sulla autodeterminazione e la laicità, quindi immaginiamo avrete altre tappe da raggiungere, altre cose che state organizzando, preparando. Beh sì, poi innanzitutto dirci... ovviamente il primo punto è ovviamente il Pride, no? Che si terrà, come ha detto anche Annalisa prima, il 16 di giugno. Il giorno prima del Pride noi organizzeremo il convegno sulla laicità ufficiale del Pride, che verrà inserito anche nel programma del Pride, che si chiama Nessun Dogma, parole di laicità. Nessun Dogma è bellissimo. È bellissimo. Se sì. Lo dire si metterà alla. Nessun Dogma è meravigliosa, veramente. E ecco, appunto, entro un paio di giorni uscirà il programma con sorprese molto interessanti. Benissimo. Lancerete pure la ricetta straccetti di laicità. Straccetti di laicità è una ricetta, effettivamente, a Roma. Gli straccetti, gli strozzapreti e gli straccetti di laicità. La prima Cristi, questo vino meraviglioso. E so che c'era una colonna sonora che era durante tutta la manifestazione, almeno così si leggeva sui giornali, che era Will Survive. Io direi di metterla a questo punto. No, la colonna sonora che... No, no, non hai letto della... male. Tra l'altro è appena uscito un libro sulla storia del movimento gay, curato anche da Nicoletta Podimani di Facciamo Breccia, che si intitola proprio We Survive. Vedi, quindi. E quindi noi l'abbiamo recuperata dalla nostra cassetta della musica, anziché dalla cassetta degli attrezzi, per cui manderemo ai We Survive e speriamo di sopravvivere. Non lo so, con i tempi che corrono. Infatti. Non è molto facile. Gnafa, gnafa. Gnafa, gnafa. Gnafa, gnafa. Gnafa. Ok. Allora salutiamo. Io è la rivoluzione. Hai ragione, hai ragione. La rivoluzione. Nessun dogma, ma pure nessun dorma. È carina. Allora salutiamo Monica. Grazie. È un piacere di rimanere con noi. Siamo contente. E mandiamo il pezzo musicale. Ci sentiamo subito dopo. I should've finisce così. No, sì. Allora, siamo sopravvissuti. Perché ci ha scritto un SMS e quindi approfittiamo per ridire il nostro numero di telefono. Vi ricordiamo che siete all'ascolto della nostra calamità, che di cui ci rendiamo perfettamente conto. Della quale, qui mi suggeriva Monica che dovremmo cambiare il titolo della trasmissione, sì. Della quale ci rendiamo perfettamente conto, però ormai sono passati 10 anni, Monica, dovrei ragione. Rassegnare. Sì, è lungo. E rimarrà così. E rimarrà così. E niente, siete in diretta con noi, con me, Rosina del CLR, ospite Monica Petri. E facciamo un breccia. Esatto, e vi diciamo anche i numeri di telefono che sono, per chi vuole sentirci in diretta può telefonarci qui in radio allo 06 49 17 50, oppure può mandare un SMS, questo per le più timide, al 338 41 46 682. E parliamo di Pride. Eh sì, continuiamo sulla scia della laicità e dell'autodeterminazione. Con la bella stagione si fa il Pride. Il Pride si fa a Mosca. Si viene a Mosca, dove si pigliano un sacco di botte. Ma sembra che lo vogliono rifare, che gli è piaciuta sta cosa. Gli è piaciuto. Sì, il 31 maggio hanno rilanciato la. E dice che fa bene a capelli il Pride, sì, a Mosca. Benissimo. No, veramente fanno bene alla pelle, le uova marcele, i cazzottoni. No, a parte gli scherzi, siamo abbastanza. I fascisti, insomma, che cadono. Però c'è da notare che effettivamente a Mosca sono molto democratici. I comunisti di Mosca sono democratici. Quelli di italiani mangiano i bambini secondo Berlusconi. E quelli di Putin invece no evidentemente. Quelli che piacciono, sì, infatti. Si limitano a fare le frittate sulla, siamo sulla gente. Siamo vicini al gruppo di, insomma, di radicali, a Vladimir, che hanno. No, sì, che dici? Certo, siamo vicinissimi, come no? E quindi? In realtà io sono personalmente piacevolmente sorpresa dal fatto che D'Alema si è fatto venire fuori la voce e ha condannato questo gesto e ha chiesto che ha già mobilitato l'ambasciata russa, insomma, per. Ma dimmi, magari gli era sta comodo. Protestando perché ce l'hanno rimandato indietro vivi. Cioè, o magari semplicemente era comodo per gli equilibri del G8. Naturalmente era comodo per gli equilibri del G8. Ci sarà un incontro con i russi fra breve e insomma, vedremo che cosa succederà. In realtà sono piacevolmente sorpresa di questa cosa, perché D'Alema di solito è uno che non chiacchiera molto, sai, il baffetto gli copre le labbra, quindi non si sente molto. E in realtà D'Alema ha fatto fateci anche questa cosa straordinaria. Cosa è accaduto il 24 maggio? Scusate, è partito qualcosa che non doveva partire, ma è il bello della diretta. Dicevo, D'Alema appunto ha chiesto chiarimenti rispetto ai fatti accaduti a Mosca, e però prima ancora, una settimana fa, aveva addirittura bacchettato Bush, niente meno. Ma chi? D'Alema. Quando Bush ha detto gli alleati qui devono darsi da fare in Afghanistan, lui ha detto pensa un po', cioè, io rispondo soltanto al Parlamento della mia nazione. Insomma, sì. è stato capace di dire questa cosa al Presidente degli Stati Uniti. Non sono capace di dire al Papa, ma insomma, ti vuoi fare un pacchetto di fatti tuoi e lasciare a noi la sovranità del nostro hanno Stato? Hanno capito chi comanda, vedi? Hanno capito chi comanda, evidentemente. Hanno capito che il Papa conta molto più del Presidente degli Stati Uniti, che avremo gradito ospite, tra l'altro, fra breve. Voi avete qualche iniziativa di accoglienza? Non abbiamo avuto ancora modo di metterci a riflettere su questa specifica fase. Noi volevamo fare la serata per la figlia, che sennò faremo la serata per la figlia a Roma, invece no. Quando il padre viene a fare le sue iniziative, lei viene al Buon Pastore a danzare e a ballare con le lesbiche, vabbè. Va bene, parliamo invece del Pride nostro, appunto, quello che ci aspetta il 16 giugno, quello nazionale di Roma, poi ce ne sarà uno a fine giugno, inizio luglio a Catania, anche questo è importantissimo perché più che mai antifascista, e volevamo leggervi il documento politico ufficiale che è stato proprio diffuso da poco dagli organizzatori del Pride di quest'anno, che comincia con tre parole chiave che sembrano essere appunto le tre parole che diciamo sosterranno questo Pride, che sono parità, dignità e laicità. Ci hanno aggiunto la laicità perché sennò PD, Partito Democratico, no la laicità, la laicità ci sta. E comincia così, allora ve lo leggo. Il 16 giugno è la data che abbiamo individuato come movimento LGBT italiano di convocazione del Pride nazionale di Roma. Noi lesbiche, gay, trans e bisessuali vogliamo costruire una manifestazione aperta a tutti i soggetti politici, sociali e culturali del paese che condividono la necessità di costruire una proposta laica che si ponga l'obiettivo non solo di difendere la sovranità dello Stato, ma che apra anche una stagione di riforme democratiche, civili e libertarie in Italia. Noi siamo portatori e portatrici di pari dignità e rivendichiamo che il Parlamento e il Governo, così come le forze sociali e politiche, riconoscano e garantiscano uguale dignità e pari diritti, nel rispetto della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, della Costituzione Italiana, della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e nel rispetto del principio della laicità dello Stato italiano e della sua autonomia da ogni ingerenza confessionale. Le nostre rivendicazioni si inseriscono in un quadro politico ed istituzionale desolante, in clima sociale e culturale d'odio, alimentato dalle gerarchie cattoliche. Scusate, abbiamo un piccolo rientro. Sì. Cattoliche, oddio, ho perso pure il segno. Hai perso il segno. Ah, è sostenuto da una politica debole e in affanno, perché ha completamente smarrito i valori fondanti della convivenza e del pluralismo ideale. È in atto un conflitto di cui vogliamo assumerci l'onere, che cerca di connotarsi come uno scontro fra civiltà, tra eterosessuali e cittadini, LGBT, tra cattolici ed atei, tra migranti e italiani, ed invece ha lo scopo di imporre un pensiero unico, un arretramento sul terreno delle conquiste sociali e di cancellazione di ogni tipo di speranza di riscatto ed emancipazione dei differenti vissuti, identità ed orientamenti sessuali. Per questo vogliamo sollecitare la costruzione di reti e relazioni affinché il Pride nazionale del 16 giugno 2007 sia un grande appuntamento per tutte e tutti coloro che hanno a cuore la libertà, la democrazia, l'antifascismo. Facciamo appello al movimento delle donne, delle organizzazioni dei lavoratori, dell'associazionismo, della solidarietà e dell'impegno civile, alle e agli intellettuali, ai gruppi giovanili, alle espressioni di base, perché ci aiutino a rendere il 16 di giugno un appuntamento di popolo, in cui siano presenti tutti i colori e tutte le pluralità. E continua il documento politico, un popolo che respinge il tentativo di imporre all'Italia la sovranità limitata, congeniata da uno Stato straniero, il Vaticano, che strumentalmente utilizza il diffuso sentimento religioso per accarezzare sogni neoteocratici. Le manifestazioni clericali contro qualsiasi tipo di riconoscimento delle relazioni extramatrimoniali sono il segno tangibile di una volontà prevaricatrice e antidemocratica da parte di istituzioni che, violando persino il concordato, si vogliono sostituire alle istituzioni repubblicane e democraticamente elette. L'attacco alla libertà delle donne, delle lesbiche, dei gay, dei e delle trans rappresenta l'ultima frontiera di uno scontro epocale che Ratzinger vuole portare fino alle estreme conseguenze. Al silenzio di tanta politica, di tanti mass media, noi rispondiamo con il nostro Pride per invadere pacificamente la capitale del paese e ricordare che la convivenza, le pluralità, le libertà sono valori da difendere, innanzitutto facendoli vivere alla luce del sole, negli spazi e nelle strade della civiltà moderna. Dobbiamo inoltre sottolineare che, nonostante diverse assicurazioni e impegni assunti, nessun provvedimento legislativo è addirittura d'arrivo in Parlamento. Assenti le azioni positive che il governo potrebbe intraprendere autonomamente, fra cui una efficace lotta contro il bullismo e l'odio omofobico, lesbofobo o lesbofobo e transfobo. Sono questi neologismi che ti danno qualche problema nella... Allora, c'è un voto di proposta ed impegno affinché milioni di cittadine e di cittadini possano finalmente vivere degnamente. Per questo le pari dignità e i pari diritti per le persone LGBT rimangono centrali e assumono il valore di paradigma nel conflitto fra chi vuole uno Stato laico e chi cerca di riportare l'Italia nel Medioevo. Le nostre vite sono un fatto dirompente perché svelano che non esistono modelli unici, ma libertà individuali, autodeterminazioni, famiglie culturali e non naturali. Tutte e tutti a Roma il 16 giugno, insieme in tante e tanti, con gioia, determinazione, con i nostri corpi e le nostre idee per un futuro di libertà. Così chiude il documento politico degli organizzatori del Gay Pride di Roma, che appunto sarà un Pride nazionale. Noi come CLR, voi sapete, abbiamo sempre avuto un occhio critico rispetto al Pride, un po' perché la categoria dell'orgoglio è una categoria che insomma non ci appartiene, non ci attraversa. Abbiamo partecipato nel 2000 perché era una situazione molto particolare, c'era il giubileo di Wojtyla, e era un Pride niente meno che mondiale, e poi ci siamo sempre posizionati un po' a margine, insomma, guardando a quello che succedeva, senza però mai più prendere parte come gruppo politico a queste iniziative. abbiamo un problema con i telefoni che ci assillano. Ci stanno tempestando i messaggi. Lo so, l'argomento preme, è importante. Quindi quest'anno noi abbiamo, si può dire adesso, lo dobbiamo dire in chiusura di trasmissione, no, lo diciamo adesso. Quest'anno abbiamo deciso come coordinamento Lesbiche Romane di aderire a questo Pride, proprio sulla spinta di tutte quelle istanze di cui ci parlava poco fa Monica, quindi l'autodeterminazione, la laicità. Noi abbiamo aggiunto alle tre parole d'ordine del documento politico degli organizzatori del Pride altri tre termini che per noi sono fondamentali, e cioè l'antifascismo, l'autodeterminazione e il desiderio. Prima di leggere il nostro documento, perché vi leggeremo anche quello. No, è breve, però è breve, sì, noi siamo concise, sì. E magari non so se Annalisa ci vuole mandare un pezzo musicale per alleggerire un po' la tensione che attraversa questo spazio. Okay. Non se ne è ancora preparato, ma come no, le cose vanno così. Faremo così. Ya no estás más a mi lado, corazón. El alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus brazos se encontraba el amor que me brindaba, el calor de tu pasión. Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Qué noche tan oscura, todo se me hace volver. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. La historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué noche tan oscura, todo se me hace volver. Estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Non vi dico i commenti di Rosina su questo pezzo, ma come? Questo pezzo uno è romantico. È un commento bellissimo. Stiamo a parlare di amore lesbico, di Pride, no? Che non ha parole. Dai, no, volevo dire tra l'altro che Gio sta un po' giù, non posso risponderle perché non ci abbiamo manco credito con sto telefonino. Con telefono. Mi sono in tu piazza, lo sai, io mi occupo perciò senti sti cose. Quindi un bacio Gio, poi parliamo con calma, magari viene al Suffolk Garden che si farà quest'anno, forse. Forse. Se a riusciamo lui, a forse. Trovare un posto alla Casa Internazionale delle Donne, magari potremmo fare questo Suffolk Garden. Piena di eventi che proprio non sembra che ci sia più spazio per noi, ma no, niente, imperterrite a costo di farlo il 15 agosto, no? Sarà frequentatissimo, immagino, vabbè, quella data. Noi, poi, tanto. Allora, come vi accennava Rosina, vi leggeremo il nostro documento fresco fresco, perché ancora non l'abbiamo pubblicato su internet, no, e ancora non l'abbiamo mandato presto. Al nostro indirizzario. Quindi se avete delle cose da dirci, se non vi piace, ce lo scrivete, non ce lo siamo dite, andati perché, in tempo. Non ce lo dite perché tanto comunque il documento di adesione rimarrà quello. Allora, come vi dicevamo prima, il documento degli organizzatori parla di parità, dignità e laicità. Noi ci siamo sentite di aggiungere questi altri tre termini a cui che sentiamo particolarmente nostri, oltre a quelli, che è antifascismo, autodeterminazione e desiderio. E vi leggo appunto quello che sarà il nostro comunicato che diffonderemo a breve. Insomma, brevissimo, a strettissimo brevissimo. Giro. Non già comprate stasera. La Repubblica perché hanno detto che non c'è pubblico. Solo il manifesto, forse. Stranamente non c'è pubblico. Allora, mai come in questo momento storico stanno agendo all'interno della nostra società forze contrastanti che tendono ad acuire il conflitto sui valori. La Chiesa Cattolica, sempre lei, fiancheggiata da una destra reazionaria e fascista, si muove come soggetto politico in ambiti che non le competono. L'obiettivo è quello di controllare non solo le anime, ma anche i corpi vivi, attraverso interventi violenti volti a trasformare uno Stato laico e sovrano in uno Stato confessionale. La stessa lo Stato laico, il nostro, lo Stato confessionale, il loro. Dovrebbe essere, ma sarà il contrario proprio qua. La stessa sinistra, compresa nello sforzo della creazione del Partito Democratico, pur di salvare poltrone e voti, abdica al suo naturale ruolo di portatrice di istanze democratiche e si piega di fatto ai dettami del Vaticano e della destra. Inutile ricordare che i valori della destra e dei fascisti ricacciano le donne in un ruolo di subalternità, dove il desiderio non alberga. In questo quadro le lesbiche rischiano l'ennesima cancellazione. La solerzia del mondo politico nel difendere la libertà delle gerarchie cattoliche di esprimere le proprie opinioni in merito alle questioni che riguardano la vita, l'affettività, l'autodeterminazione delle cittadine e dei cittadini scompare quando si tratta di prendere posizione concreta rispetto alle infinite violenze che le donne subiscono quotidianamente fuori, ma soprattutto dentro la famiglia, proprio quella del Family Day che da più parti si intende appoggiare e proteggere. È la famiglia la forma sociale di controllo delle donne che ne impedisce l'autodeterminazione attraverso la violenza, l'imposizione della cura, il ricatto sociale ed economico. È la famiglia nella sua doppia valenza di cellula religiosa e sociale che impedisce una libera espressione del laicismo individuale. Al suo interno troppo spesso il desiderio si declina secondo i canoni imposti dalla morale vigente clerico-patriarcale. Ecco perché da sempre crediamo che una battaglia comune debba essere l'abolizione dell'articolo 29 della Costituzione italiana, che identifica la famiglia come società naturale, fondata sul matrimonio, e non già la rincorsa di surrogati illusori antidemocratici, quali dico o equivalenti, che accentuerebbero privilegi fondati sulla dualità della coppia, a discapito delle singole e dei singoli. Per tutte queste considerazioni, pur condividendo le parole d'ordine, parità, dignità, laicità, sentiamo di dover aggiungere anche antifascismo, autodeterminazione e desiderio. Proprio il desiderio, come ci ha insegnato il movimento lesbo-femminista al quale apparteniamo, è la forza che attraversando le nostre vite ci spinge a realizzare i cambiamenti. Sono questi presupposti che impongono a donne e uomini della società civile una battaglia per la riconquista della propria autodeterminazione, attraverso la quale riaffermare il controllo sulla propria esistenza, sui propri desideri e sul proprio corpo. E se si parla di corpi, la visibilità non può più essere superficiale, deve essere tangibile. E quindi abbiamo scelto di essere presenti al Pride con i nostri corpi, testimoniando la nostra presenza in termini di vita, esperienza e soggettività. Se vogliono dominare i nostri corpi, con i nostri corpi noi diciamo no. E quindi saremo in piazza? Saremo in piazza, anche noi. Speriamo che si potrà fare. Monica, forse qui ci potrai dare anche tu una conferma. O non ancora, non ancora. Non ancora nessuna conferma. Noi speriamo. Posso dire che ci sarà lo spezzone, facciamo breccia. Tu puoi dire che ci sarà lo spezzone, facciamo breccia. Noi speriamo che ci sarà. Noi auguriamo che ci sia lo spezzone lesbico, come c'è stato la manifestazione Novat, che ci si riesca a organizzare anche al Pride. Tenteremo in tutti i modi, vedremo di riuscire in questa difficile. Lanceremo questa proposta. Lanceremo questa proposta. E dunque, prima di passare agli appuntamenti, che sono in realtà soltanto due questa settimana che vi volevamo dire, io direi di passare un... purtroppo a Will Survive ce lo siamo giocati così. È vero, una tragedia. Facciamo respect. Ma sì, respect. Certo, pure quello, via, ormai stasera va da sé. Come te, aspetto un treno e perdo il filo. Ho un problema... di mixer, perché intanto è partito l'automatico. Per cui cambieremo, mettiamo la Katie Lang. Just a kiss, I have lived just for this. I can't explain why I've become this chatelaine. Just a smile. Eccoci, sempre più pimpanti, dove, cioè veramente io vi vorrei fa mezza trasmissione con Rosina con la faccia stravolta, ma che è, mica lavori solo tu? Ma tengo mal di testa. Allora, fatti una famiglia e fa la casalinga come tutte le altre. Sta a sentire Rosy Bindi. Potrebbe essere, potrei fare una famiglia con Rosy Bindi, farei un dico con lei, hai visto mai? Oh, abbiamo un sacco di appuntamenti, proprio tanti, due. Tantissimi, due. Due. E uno di questi è, come forse saprete, un convegno sulla storia che non c'era, no, dal titolo La storia che non c'era, il movimento delle lesbiche in Italia, l'1, 2 e 3 giugno alla Cassa Internazionale delle Donne, via della Lungara 19 a Roma. E il convegno organizzato da Arci Lesbica. Ripeti? Organizzato da Arci Lesbica. Sì. Sulla storia del movimento delle lesbiche in Italia. No? Sì. 30 anni di storia organizzati in 3 giornate di studio e dibattito dall'1 e 3 giugno. Queste le tappe principali. Una storia del lesbismo politico in Italia dagli anni 70 a oggi, identità, queer, orgoglio, pure separatismo. Sì, però... Vabbè, poi lo diciamo. No, non c'è bisogno. Diritti, utopie, integrazione, visibilità, teorie, conflitti, amori, imprevisti. Poi c'è lesbiche al fianco del movimento femminista, del movimento gay o indipendenti, esperienze straordinarie di autonomia da consegnare alla memoria collettiva al movimento di oggi. Che dire, auguriamo so che un buon tempo lavoro. Si mette al bello per questo weekend. No, dico, però... Potranno farlo, fare il convegno in giardino. Sì, potrebbero ad esempio aprire all'aperto, no? No, a parte gli scherzi, sono un po' così, però... Vabbè, il celliere non ci sarà. Il celliere non ci sarà. Non è stato invitato perché evidentemente non siamo abbastanza separatiste. Né lesbiche, né separatiste. No, comunque vi invitiamo ad andare a questo convegno. Un po' di delusione, forse... Sì. Ci saranno sicuramente dei motivi per cui... Non siamo stati invitati. Non siamo state invitate noi, io direi che molte esponenti del movimento lesbo femminista non sono state invitate, sì. Per cui evidentemente le organizzatrici hanno fatto una scelta a monte che avrà delle motivazioni specifiche. Noi speriamo di riuscire a capire prima o poi. Squilla il telefono, forse ci invitano per mo. Per quale motivo c'è stata questa direi incongruenza, mi viene sì. da dire incongruenza, sì. Perché insomma quando si parla di lesbo femminismo forse le lesbo femministe dovrebbero essere a quel tavolo. Ad ogni modo noi davvero senza nessuna ironia auguriamo alle compagne di Arci Lesbica un buon lavoro, sì, e sì. Appunto invitiamo tutte le donne che vogliono andare alla Casa Internazionale per questo convegno, appunto il primo, il 2 e il 3 di giugno, e immagino sul sito di Arci Lesbica ci sarà il programma specifico del convegno, gli orari e gli interventi. E invece il mercoledì 30 maggio passiamo ad un altro, sì, appuntamento. Ni una mas, non una di più, che è un incontro organizzato da, oddio, ho scritto troppo piccolo, sì, è scritto piccolissimo, un po' di presbiopia, è un'iniziativa a sostegno dell'associazione Nuestra Hijas de Regreso a Casa, possiamo sì. dire che è stato pronunciato bene, perfetto. E si tratta di una iniziativa collegata ai fatti di Ciudad Juárez, dove appunto sono più di 130 donne, le donne assassinate, è una città che si trova nello stato di Chihuahua in Messico, e più di 600 sono le donne scomparse dal 1993 ad oggi secondo lo stesso rituale, quindi rapimento, tortura, sevizie sessuali, mutilazioni, strangolamento. Questa associazione, Nuestras Hijas de Regreso a Casa, riunisce i familiari delle donne uccise e scomparse appunto a Ciudad Juárez, e questa è un'iniziativa che viene organizzata dalle Donne in Nero di Roma e si terrà appunto mercoledì 30 maggio alla sala convegni al primo piano della Casa Internazionale delle Donne, sì, a Roma in via della Lungara 19. Quindi il 30 maggio, appunto mercoledì, perciò domani ci sarà questa iniziativa delle Donne in Nero, e poi il primo, il 2 e il 3 maggio il convegno di Arci Lesbica sempre alla Casa Internazionale delle Donne. A questo punto noi siamo in dirittura di arrivo, no, nonostante Annalisa si strappi i capelli. Allora, se ci volete vedere, però lo possiamo dire, il 16 sì. giugno siamo in piazza, certo, nel Pride nazionale, e quindi cercateci a Piazza San Giovanni, vedete, quelle più brutte, le uniche tre con lo striscione lesbico separatista, lo striscione giallo separatista siamo noi. E poi vi invito a visitare il nostro sito, che ogni tanto si aggiorna, chissà chi è che se ne occupa, che sta a fare, per sapere la data esatta del nostro Sappho Garden, che dovrebbe essere intorno tra il 7 e l'8 luglio credo. No, è ancora da definire, comunque sicuramente sarà più o meno in quella. Martedì prossimo andiamo in replica, quindi se ci volete, se magari vi siete persi qualche piccola cosa che abbiamo detto, ci potete riascoltare. Esatto. Dalle 9 grazie alle 10 di martedì sera. Io finisco con Teresa Desio. Tu finisci con Teresa Desio, io ringrazio Monica che è ancora qui che ci fa compagnia, grazie per essere stata con noi. E a martedì prossimo. A martedì prossimo, ciao a tutte, grazie. Ciao. Conto a cura del coordinamento lesbiche romane sugli 87 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe that something's got a hold.